Perché Dio si nasconde? In verità, tu sei un Dio che ti nascondi, Isaia 45:15. Il valore di una relazione profonda ed intima con Dio è grandissimo, immenso, incommensurabile. E, quindi, non vi è sacrificio che l'uomo ritenga troppo grande pur di raggiungerla. Ogni volta che gli uomini di Dio erano soli, depressi, rifiutati, avvicinandosi a Dio, essi hanno visto dileguarsi questi stati d'animo. Ci è però un'altra esperienza, del tutto all'opposto. Siamo soli, ci presentiamo a Dio, ma Lui non risponde. Siamo vuoti, ma Egli non ci riempie. Preghiamo con fervore, nulla. Il cielo diventa di rame, il silenzio di Dio è assordante. Ci chiediamo, in quel momento, dove è Dio? Una grande verità biblica è che Dio si è rivelato all'uomo, anzi la Bibbia è la rivelazione crescente del carattere e della volontà di Dio. Però è anche vero che Dio si nasconda. Pascal osservò, poiché Dio, se esiste, è nascosto, ogni religione che non afferma che Dio è nascosto non può essere vera. Noi non siamo i primi ad avere l'esperienza di un Dio nascosto. Non siamo i soli ad essere perplessi del silenzio di Dio. Tanti uomini di Dio hanno fatto tale esperienza. Giobbe, tremendamente provato fisicamente e moralmente, chiedeva a Dio il motivo della sua situazione, senza però ricevere nessuna risposta. Il profeta Abacuc si chiede: perché stai a guardare quelli che agiscono con frode e taci quando il malvagio divora chi è più giusto di lui? Abacuc 1:13. Il profeta Isaia fa coro: in verità tu sei un Dio che ti nascondi, o Dio di Israele, o Salvatore. Isaia 45:15. Anche il salmista grida: o Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi, e anche di notte non sto in silenzio. Salmo 22:2. Il Salmo 10 è la riflessione di un credente che giudica negativamente il silenzio di Dio, perché il suo mancato intervento suscita nell'empio il pensiero che egli non ci sia, versetto 4, che lui non sarà smosso, versetto 5, che Dio dimentichi, versetto 11, che Dio non farà ricerca, versetto 13. Proprio quando ci è più bisogno di Dio, la sua presenza è meno evidente. Martin Buber chiama questa esperienza l'eclissi di Dio. C.S. Lewis così descrive il silenzio di Dio nel suo libro Diario di un dolore. E intanto, dove è Dio? Di tutti i sintomi, questo è uno dei più inquietanti. Quando sei felice, così felice che non avverti il bisogno di Lui, così felice che sei tentato di sentire le sue richieste come un'interruzione, se ti riprendi e ti volgi a Lui per ringraziarlo e lodarlo, vieni accolto, questo almeno è ciò che si prova, a braccia aperte. Ma vai da Lui quando il tuo bisogno è disperato, quando ogni altro aiuto è vano, e che cosa trovi? Una porta sbattuta in faccia e il rumore di un doppio chiavistello all'interno. Poi, il silenzio. Tanto vale andarsene. Più aspetti, più il silenzio ingigantisce. Non ci sono luci alle finestre. Potrebbe essere una casa vuota. E mai stata abitata? Un tempo lo sembrava. Ed era una impressione altrettanto forte di quella di adesso. Che cosa significa? Perché il suo imperio è così presente nella prosperità e il suo soccorso così totalmente assente nella tribolazione? Perché Dio si nasconde? Perché non risponde? Perché non interviene nei momenti bui della nostra vita? Perché Dio ci lascia in balia dei nostri interrogativi? Come disse qualcuno, ho bisogno del suo silenzio, ma non di un silenzio da parte sua. Cerchiamo perciò di rispondere a queste domande per trovare in quei momenti consolazione e conforto, per non perderci d'animo. Le ragioni del silenzio di Dio non sono univoche. Dio tace per delle ragioni sue a volte, a causa del nostro comportamento. Valutiamole. L-R-A-G-I-O-N-I-D-I-D-I-O 1. Dio si nasconde per il nostro bene. Deuteronomio 8, 15-16. L'Eterno, il tuo Dio, ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Ti ha condotto attraverso questo grande e terribile deserto, luogo di serpenti ardenti e di scorpioni, terra arida, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna che i tuoi padri non conoscevano, per umiliarti e per provarti e per farti alla fine del bene. Nessun popolo, come Israele, ha vagabondato nel deserto per 40 anni. L'Eterno Dio aveva scelto per loro un percorso pieno di sofferenze, di prove, di tentazioni, eppure tutto ciò era stato per il loro bene. La più grande verità che esista in questo mondo è che Dio sia amore. Eppure, nei momenti bui, nei momenti difficili della vita, ce ne dimentichiamo. La verità che Dio ci ami dà a chi ha il timore di Dio la possibilità di accettare ogni situazione, specialmente quelle che non comprende. Il buio da parte di Dio, questo suo modo di procedere a noi incomprensibile, diventa anch'esso un'espressione del suo amore. Questo deve essere il presupposto da porsi innanzi a ogni altra considerazione. Del resto, come è possibile ravvisare l'amore di Dio nelle situazioni di questa vita? Dove è attivo più che mai il principe di questo mondo, cioè Satana? Poiché dolore, ingiustizia, sfruttamento sono ovunque, com'è possibile parlare dell'amore di Dio? Se noi avessimo posto la stessa domanda agli israeliti, che vagavano nel deserto da decine d'anni, forse, anch'essi si sarebbero trovati in difficoltà a rispondere. Eppure, proprio nei momenti di eclisse, è necessario indirizzare il nostro ragionamento e il nostro cuore all'amore di Dio. Questo non tanto per illudere noi stessi di un aspetto inesistente, ma per ricordare che, alla fine, per chi ha posto la fede in Cristo Gesù, vi è una ricompensa. Anche il predicatore di cui accenna la Bibbia dopo aver considerato che tutto sia vanità fa una simile riflessione. Anche se il peccatore fa 100 volte il male e prolunga i suoi giorni, tuttavia io so che otterranno bene quelli che temono Dio, che provano timore davanti a Lui. Ecclesiaste 8:12. Poiché Gesù Cristo è morto per i peccatori, poiché è giustificato chiunque crede in Lui, il Figlio di Dio può dire: io so che alla fine il bene è per chi teme Dio. Non sempre l'amore di Dio si vede, non sempre le opere di Dio si ravvisano, non sempre la giustizia di Dio è evidente, ma il cristiano non si lascia confondere perché sa. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, Romani 8:28. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama il proprio fratello rimane nella morte, 1 Giovanni 3:14. Proprio perché sa di essere amato, il figlio di Dio non teme che Dio si nasconda. 2. Dio si nasconde perché vuole essere cercato. Atti 17:26-27. Dio ha tratto da uno solo tutte le stirpi degli uomini, perché abitassero sopra tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche prestabilite e i confini della loro abitazione, affinché cercassero il Signore, semmai riuscissero a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lontano da ognuno di noi. L'Eterno Dio ha creato l'uomo perché questo lo cerchi. Ma, per come siamo fatti, noi non cerchiamo ciò che è evidente, anzi, è proprio ciò che è nascosto ad attirare fortemente la nostra curiosità. Così, nascondendosi, Dio crea nell'uomo curiosità, una sete di ricerca, lo stimolo di andare a Lui. Esiste però anche l'aspetto contrario. Nascondendosi, Dio dà all'uomo, che la voglia, una scusa, un alibi, per non credere in Lui e per non cercarlo. In pratica ci è abbastanza luce per chi lo voglia cercare, per chi si è disposto a confidare in Lui, e abbastanza buio per chi non vuol credere e abbandonarsi alla sua rivelazione. Quando Paolo disse «Ora vediamo in modo oscuro», 1 Corinzi 13:12, voleva appunto esprimere la relatività della nostra comprensione. Per alcuni il buio diventa una scusa e un inciampo, per altri uno stimolo di ricerca. Le circostanze sono neutre. Con la nostra reazione, positiva o negativa, nei confronti di Dio e del suo regno, non facciamo altro che mettere in evidenza ciò che abbiamo nel cuore. Ed è ciò che disse il profeta Geremia. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente malato. Chi lo può conoscere? Io, l'Eterno, investigo il cuore, metto alla prova la mente per rendere a ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Geremia 17, 9-10. La nostra esistenza è una prova che rivela ciò che esiste nel profondo del nostro essere. 3. Dio si nasconde come atto di misericordia. Esodo 3, 1-6. Ora Mosè pascolava il gregge di Getro, suo suocero, sacerdote di Madian, e gli portò il gregge oltre il deserto e giunse alla montagna di Dio, all'Oreb. E l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco, di mezzo a un roveto. Mosè guardò, ed ecco il roveto bruciava col fuoco. Ma il roveto non si consumava. Allora Mosè disse, «Ora mi sposterò per vedere questo grandioso spettacolo, perché mai il roveto non si consuma». Or l'Eterno vide che egli si era spostato per vedere, e Dio lo chiamò di mezzo al roveto e disse, «Mosè, Mosè!» Egli rispose, «Eccomi». Dio disse, «Non avvicinarti qui. Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo santo». Poi aggiunse, «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe». E Mosè si nascose la faccia, perché aveva paura di guardare Dio. Quando Mosè si rese conto che colui che egli stava guardando fosse Dio, si nascose la faccia. Questo è stato l'atteggiamento di tutti coloro che erano coscienti di essere alla presenza del Creatore Dio. Adamo ed Eva, quando udirono la voce dell'Eterno Dio, si nascosero. Isaia, quando vide la gloria dell'Eterno, ne fu spaventato. Il peso del suo peccato divenne tanto grande che l'Eterno dovette togliere la colpa. Teniamo presente che egli vide solo la sua gloria velata. Un atto d'amore di Dio è anche quello di non rivelarsi troppo. Simone Weil, un'ebrea educata all'agnosticismo, scrisse che Dio non poteva creare che nascondendosi, altrimenti non sarebbe potuto esistere che lui solo. Noi esseri umani non possiamo sopportare la realtà nella sua pienezza. Siamo tutti troppo fragili. Gridando di poter entrare alla presenza di Dio, a volte desideriamo più di quello che potremmo sopportare. Come bambini, a volte noi chiediamo cose non lecite. Le reazioni di pentimento e di prostrazione di coloro che ebbero un incontro ravvicinato con Dio sono significative. Ecco perché i perduti fuggiranno dalla presenza di Dio. Il peso della loro colpa sarà talmente grave che non potranno sopportare la sua santità. Un poco di luce è un bene per noi, ma troppa luce ci farebbe diventare ciechi. La luce ha la proprietà di illuminare, ma anche la capacità di accecare. Isaia e Mosè, se avessero potuto vedere l'Eterno Dio nella sua gloria, sarebbero stati completamente accecati e completamente schiacciati dal peso dei loro peccati. In questo senso, allora il nascondersi di Dio diventa un atto di misericordia. 4. Dio si nasconde perché la nostra personalità possa crescere, svilupparsi. Ebrei 5:13-14. Chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è ancora un bambino. Il cibo solido invece è per gli adulti, che per l'esperienza hanno le facoltà esercitate a discernere il bene dal male. Il volere di Dio è che noi dipendiamo da Lui in tutto. L'Apostolo Paolo scrisse, «In ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio», Filippesi 4:6. Ma ci è una dipendenza da Dio che ha le sue radici nell'immaturità. A volte non vogliamo fare uso delle risorse che Dio ci ha fornito. Evitiamo le responsabilità delle scelte da fare nella vita, cercando di gettare su Dio anche il peso dei minimi dilemmi. Dio vuole che usiamo l'intelletto, che esercitiamo le facoltà naturali per diventare uomini. E ciò che Paolo scrisse ai credenti di Corinto, tutto spirito, ma niente testa. Perciò chi parla in altra lingua preghi di poter interpretare perché, se io prego in altra lingua, il mio spirito ben prega, ma la mia mente rimane infruttuosa. Che si deve dunque fare? Pregherò con lo spirito, ma lo farò anche con la mente. Canterò con lo spirito, ma canterò anche con la mente. Tuttavia, se tu lodi Dio con lo spirito, colui che occupa il posto del profano, come dirà Amen al tuo ringraziamento, poiché egli non comprende ciò che tu dici? Infatti tu puoi anche rendere un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato. Io ringrazio il mio Dio, perché parlo in lingue più di voi tutti. Ma nell'assemblea preferisco dire 5 parole, con la mia intelligenza, per istruire anche gli altri, piuttosto che 10.000 parole in altra lingua. Fratelli, non siate bambini di senno, ma siate bambini in malizia e uomini compiuti in senno. 1 Corinzi 14, 13, 20. Si nasce maschi o femmina, ma uomini e donne si diventa. Ciò che fa diventare uomini e donne sono le difficoltà, i problemi, perché nel saperli affrontare formiamo il nostro carattere, la nostra personalità. Nella parabola dei talenti il padrone era assente, in modo che i servitori fossero liberi di far fruttare i doni distribuiti. Dobbiamo imparare che chi è un tempo in cui troppo intervento divino diventerebbe un chi modo lire intrusione divina. Dobbiamo allenare la mente a saper discernere, così che, a sua volta, la volontà possa esercitarsi ad operare la scelta giusta. Non sviluppando la nostra personalità, noi non potremo diventare degli uomini validi al servizio di Dio. Scrive Paul Tournier a conclusione del suo libro Problemi di vita, nel quale egli affronta il grande dilemma delle tensioni: cedere o non cedere, insistere o lasciar perdere. Esistono, pertanto, a mio avviso, 3 gradi nella nostra ricerca di direttive di condotta. Vi è anzitutto quello della riflessione logica, che solleva tutti quei problemi e dilemmi, che poi si sforza di risolvere nel miglior modo possibile, con l'ausilio della scienza, della conoscenza morale e di una lucida analisi delle situazioni e della psicologia del profondo. Si ha poi il grado della ricerca dell'ispirazione divina, che ancora si svolge a livello di dilemmi, ma si sforza di risolverli alla luce di una risposta di Dio, ottenuta sia attraverso lo studio oggettivo della Bibbia e dell'insegnamento teologico, sia mediante un'illuminazione diretta e soggettiva, scaturita nel raccoglimento. Chiaramente tale ricerca è valida solo per chi crede. Il terzo grado si colloca ancora ad un altro livello, quello della crescita della persona, che sorpassa i dilemmi, quello di una evoluzione dell'essere in conformità col piano di Dio, che lo conduce ad un'integrazione delle tendenze contraddittorie che prima lo laceravano. I silenzi di Dio sono dunque educativi, sono voluti da Lui per farci riflettere, per farci addestrare di più nella comprensione della Sua volontà, affinché ci lasciamo trasformare mediante il rinnovamento della nostra mente. Romani 12, 2. 5. Dio si nasconde perché l'uomo riguardi all'umano. Luca 9, 28, 35. Ora avvenne che circa 8 giorni dopo questi discorsi egli prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte per pregare. E mentre egli pregava, l'aspetto del suo volto cambiò e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, 2 uomini parlavano con lui. Essi erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita che stava per compiersi a Gerusalemme. Or Pietro e i suoi compagni erano appesantiti dal sonno, ma, quando furono completamente svegli, videro la sua gloria e i 2 uomini che erano con lui. E mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bene per noi stare qui. Facciamo dunque 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Ma egli non sapeva quello che diceva. Dio ha lasciato intravedere di sé quel tanto che basta all'uomo affinché quest'ultimo non fosse tentato di dimenticare o tralasciare ciò che è umano. Il pericolo per l'uomo nel conoscere le cose del cielo per rimanere abbagliato tanto dal divino al punto di disinteressarsi delle cose terrene. Cosa disse Pietro a Gesù sul monte della trasfigurazione nel momento in cui toccava il cielo con un dito? Maestro, è bene per noi stare qui. In quell'istante, secondo Pietro, il bene era rimanere alla presenza del Cristo glorificato. Aveva dimenticato d'essere stato scelto per predicare l'Evangelo. Era stato mandato, non scelto, per rimanere alla presenza di Dio. Il nostro Dio a volte deve portarci in momenti bui, per farci ricordare la nostra condizione di esseri umani, chiamati ad amare i nostri simili. Il silenzio di Dio ci rende più sensibili nei riguardi di chi sia solo. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. 2 Corinzi 1:3-4. Solo chi ha fatto certe esperienze può aiutare chi si trovi in difficoltà. Soffrendo comprendiamo meglio l'abbandono, il dubbio, le perplessità degli altri. La sofferenza ci rende più umani. Per anni mi sono chiesto come un uomo potesse arrivare al suicidio, ma dopo un'esperienza apparentemente banale, ho capito che noi tutti abbiamo un punto debole in cui saremmo disposti all'atto estremo, pur di evitare certe prove. La morte ha dunque anche un aspetto di grande liberazione. 6. Dio si nasconde per mettere alla prova l'uomo. L'uomo non può vedere Dio. Possiamo vederne le opere, ma queste possono anche essere negate. La vita stessa, piena di sofferenza e travaglio, non rivela, in modo evidente, l'amore del Creatore per la sua creatura. Proprio per questo, l'incredulo giudica Dio secondo i suoi parametri. Tu siedi, parli contro il tuo fratello e diffami il figlio di tua madre. Tu hai fatto queste cose e io ho taciuto. Tu hai pensato che io fossi del tutto simile a te. Ma io ti risponderò e ti metterò ogni cosa davanti agli occhi. Salmo 50, 20-21. Chi hai temuto, di chi hai avuto paura per mentire, non ricordarti di me e non pensare più a me? Non sono io rimasto in silenzio per molto tempo? Per questo non mi temi più. Isaia 57:11. Il silenzio di Dio diventa dunque una prova per l'incredulo, perché egli è spinto a non credere e a giudicarlo malamente. Ma anche colui che ha posto la sua fede in Gesù Cristo è messo alla prova quando Dio non interviene nella sua vita. Ezechia aveva avuto un'esperienza unica nel suo genere. Gli era stato concesso di avere 15 anni di vita in più. Ma Ezechia non fu riconoscente all'Eterno. E il suo cuore si inorgoglì. Ma quando i capi di Babilonia gli inviarono messaggeri per informarsi del prodigio che era avvenuto nel paese, Dio lo abbandonò per metterlo alla prova e conoscere tutto ciò che era nel suo cuore. 2 Cronache 32-31. Così è spesso anche per noi. Le esperienze spirituali positive ci fortificano, ma a volte ci possono rendere orgogliosi. Così Dio, per impedire che l'orgoglio aumenti, si nasconde. In effetti Ezechia, nel momento di buio spirituale, si trovò in grande difficoltà, si umiliò e Dio lo liberò. Noi abbiamo più bisogno che Dio si nasconda di quanto ne siamo convinti. Il suo buio mette in evidenza la sincerità della nostra fede, la schiettezza del nostro amore per Lui. Il nostro cuore è ingannevole, bugiardo. Possiamo pensare di amare Dio più di quanto non sia in realtà. Cosa fa allora il nostro Creatore? Si nasconde, tace. Il suo silenzio è assordante, è una prova non indifferente. Nei momenti bui, teorie, dogmi, principi diventano oscuri, come la situazione che noi stiamo vivendo. Le idee chiare, che, fino ad ora, ci hanno accompagnato nella vita, sono sconvolte, terremotate senza pietà. E noi ci sentiamo come colui che si trova sull'albero più alto di una nave. In quei momenti non riusciamo a riordinare le nostre idee, siamo impossibilitati a connettere. e quindi utile e saggio. Prepararsi ora, per il giorno della prova. Non possiamo certamente sapere a cosa andremo incontro. Non possiamo ora ragionare con il senno di poi, ma possiamo portare alla nostra mente una delle riflessioni fatte fin qui. Dio si nasconde perché mi ama. Ogni situazione volge al mio bene. Nessuno di noi conosce il futuro. Non sappiamo se ameremo o odieremo. Tutto è possibile. Ecclesiaste 9:1. Può darsi anche che io perda la fede che possiedo oggi, che abbandoni tutte le mie certezze, che non abbia più il buon senso, che perda addirittura la possibilità di connettere. Ma di una cosa sono certo. Qualsiasi cosa accada, sono nelle mani del Dio Trino. A Lui ho affidato, in un momento di estrema lucidità, nella cattiva e buona sorte, la mia anima, il mio spirito, il mio corpo. Quando non ero costretto da nessuna forza esteriore, a Lui ho restituito, in un momento preciso, la vita donatami, perché ne faccia, con la mia totale approvazione, ciò che vuole. Egli mi ha preso in parola, facendomi diventare un suo figlio mediante una nuova nascita. Fra me e il Dio Trino ci è un patto eterno, e il sangue di Cristo, sparso una volta per sempre, lo ha suggellato. So che Gesù Cristo è risorto il terzo giorno dai morti, che intercede presso la Maestà per l'eternità per me e per tutti coloro che hanno posto fede in Lui. Ho ricevuto in dono la caparra dello Spirito Santo e attendo, con piacevole curiosità, il resto del dono. Quando lascerò questo corpo mentre gli altri mortali faranno ancora l'esperienza di Dio che si nasconde, io vedrò, a faccia, Gesù Cristo, il mio Signore e Salvatore Yahweh, per sempre. Avrò la gioia di adorarlo, con parole ineffabili, che non è lecito, ad alcun uomo, di proferire, 2 Corinzi 12:4, e di servirlo. E, lì sta Nuovo Testamento eterno, da me, tanto desiderato, diventerà una realtà immutevole. Per questa sacrosanta verità, posso ripetere le parole di Paolo, infatti io sono persuaso che né morte né vita né angeli né principati né potenze né cose presenti né cose future, né altezze né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore, Romani 8:38-39. Non ci rimane che adorare il nostro Dio, che, oltre a rivelarsi, spesso si nasconde. IMOTIVIDAPARTEDLLUOMO. Abbiamo considerato alcuni motivi per i quali Dio non risponde, rimane in silenzio, non interviene. I suddetti motivi gli appartengono esclusivamente, non sono condizionati dall'uomo. In questa seconda parte dello studio vedremo i motivi per i quali Dio non risponde, non interviene, a causa, invece, del comportamento sbagliato dell'uomo. 1. Spesso noi vogliamo usare Dio anziché amarlo. La nostra natura ci spinge ad avvicinarci a Dio come se fosse un attrezzo, un utensile. Ci presentiamo davanti a Lui, come davanti ad una forza, anziché davanti ad una persona. In questo modo, le nostre preghiere, il nostro avvicinarci a Lui, sono motivati da richieste, dal nostro bisogno. La preghiera si trasforma in una lista della spesa. Il danno inevitabile è che rimaniamo bambini egoisti, spiritualmente parlando. Quanto tempo è passato da quando ti sei messo in preghiera solo per ringraziare Dio? Un cattolico romano andava spesso in chiesa, restandovi per vario tempo. Un giorno, i suoi amici gli chiesero che cosa avesse da dire a Dio per andarci a parlare così spesso e così a lungo. Egli molto semplicemente rispose che diceva solo: «Signore, sono qui». Passarono molti anni. E questo uomo si trovò grandemente malato per lungo tempo. I suoi amici lo andarono a trovare. Dal momento che aveva poche persone che lo andassero a trovare, gli chiesero se si sentiva solo. «No», ripose, «il Signore mi è vicino e mi parla». «Che cosa ti dice?» gli chiesero gli amici con un sorriso ironico. «Non molto», rispose con un sorriso. «Mi dice solo, sono qui». Il nostro Dio è un soggetto, una persona da incontrare. non un oggetto da plasmare. Non è Dio a doversi adeguare alle nostre necessità, siamo noi che dobbiamo entrare nei suoi piani, e pregare affinché sia fatta la sua volontà, se noi non impariamo ad amare Dio per quello che è. Cadiamo nell'errore di amare più i doni che il donatore. Lo prova il fatto che, spesso, siamo fedeli finché tutto va bene, poi, nel momento della prova, ci allontaniamo dalla sua presenza. Non dico dalla comunità perché questa ci è utile e ci fa comodo, ma il nostro raccoglimento diventa in questi casi molto raro. Se riflettiamo sulle relazioni che abbiamo con gli individui, dobbiamo confessare di provare una vera antipatia per quelle persone che si avvicinano a noi solo quando ne hanno bisogno e, dopo un po', se è possibile, cerchiamo di evitarle. Su questa stessa linea, coloro che si presentano a Dio solo perché Egli ha la capacità di dare certe cose, possono fare l'esperienza di un Dio che si nasconde. 2. Perché non ubbidiamo ad una rivelazione che ci è già data. La prima caratteristica del Dio dei cristiani è che Egli parla. Non è una divinità lontana e muta, dalla quale non si sa cosa voglia, né si sa cosa gli sia o non gli sia gradito. Infatti Egli, prima di pronunciare i comandamenti, disse: «Ascolta Israele». Il Signore ci ha parlato prima della conversione, durante e dopo che siamo diventati Suoi figli. Ora però siamo nel buio e vorremmo capire di più. Ma è assurdo struggersi per ricevere una grande rivelazione della volontà di Dio, quando udiamo già una voce, alla quale però non diamo ascolto. Non abbiamo il diritto di lamentarci e di protestare per una mancata rivelazione di Dio, non essendo disposti ad ubbidire a quelle ricevute. Sarebbe inutile che Dio parlasse. Allora, ecco il silenzio. Thomas Carlyle scrisse: «Compi il dovere che ti è più a portata di mano, e che tu sai essere un dovere. Il tuo secondo dovere sarà più chiaro». Se questo fosse sempre il nostro comportamento, vi sarebbe molta più serenità nel nostro cuore e risolveremmo molti problemi. Vi sono credenti che vorrebbero conoscere i loro doni ma non fanno nulla di ciò che è alla loro portata. Altri vorrebbero conoscere la volontà di Dio per una situazione specifica, ma rimangono comodi su di una poltrona. Il Signore ha guidato Paolo ad evangelizzare nella zona giusta, dopo due tentativi, non prima. Se Dio è più grande dei nostri errori, anche gli sbagli sono veicoli per conoscere la volontà di Dio. 3. Dio non risponde quando viviamo isolati. Affinché radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza. Efesini 3 e 18. Paolo afferma che l'amore si può capire con tutti i santi. Dobbiamo accettare la verità che Dio si riveli con i mezzi che si accordano con la sua volontà e non con la nostra. Dio si serve d'ogni credente per parlarci. Se ogni credente ha una piccola nota di Dio, allora per sentire il coro occorrono tutti i figli di Dio. Vivere una vita isolata è una forma d'orgoglio. Chi si separa cerca la propria soddisfazione e si adira contro tutta la vera sapienza. Proverbi 18:1. Vivendo da soli ci si occupa esclusivamente della propria soddisfazione, mentre vivere con gli altri comporta tenere presente le necessità altrui. Alcuni sono scapoli proprio per questo fatto. Anche un genitore può vivere da solo, per egoismo. Il credente è stato inserito in un corpo e non può escludersi da quest'ultimo. Isolandosi, egli rimane un membro inutile, e Dio non accetta cose inutili. Se un tralcio non porta frutto, egli lo taglia. A chi non faccia fruttare il proprio dono, Dio lo toglie. Dio non si rivela ai pigri. 3. Dio non parla quando ci rifiutiamo di udirlo. Un atteggiamento del genere non preclude che si ami il Signore, ma, a volte, preghiamo con i tappi. Nelle orecchie, quando Dio risponde, nel modo che a noi non piace. Dobbiamo sempre ricordarci che le vie di Dio non sono le nostre, che i suoi metodi non sono i nostri. Preghiamo che Dio benedica una persona, ed ecco, che si trova in difficoltà ancora più grandi. Anneliamo conoscere di più l'amore di Dio, ed ecco che affettivamente si fa il vuoto intorno a noi. Chiediamo di comprendere le vie di Dio, ed ecco che vengono minate alla radice le nostre certezze. Poi, noi siamo smarriti. Secondo noi, Dio non ha risposto. Ecco ancora una riflessione di Paul Tournier, dal suo libro Problemi di vita. Come i miei pazienti mi portano i loro dilemmi nel mio gabinetto di consultazione, così tutti noi presentiamo a Dio i nostri angosciosi quesiti, ogni volta che ci raccogliamo per cercare la sua ispirazione. Noi vorremmo poter mettere Dio con le spalle al muro per costringerlo a troncare la questione con la sua risposta. Ma egli tace! Non ci avvediamo che presentandogli a quel modo i nostri interrogativi, seppure in raccolta devozione, abbiamo la pretesa di prendere noi stessi l'iniziativa, anziché lasciarsi guidare da Dio. Ora, mentre noi ci affanniamo a proporre a Dio le nostre domande che rimangono senza risposta, egli ci propone altre domande che noi non ascoltiamo. Domande interamente diverse, che noi eludiamo perché ci metterebbero di fronte a un'obbedienza di cui indoviniamo il peso, perché ci condurrebbe a cambiare radicalmente la nostra vita. Il silenzio di Dio è prezioso e significativo. Quando Gesù taceva davanti al sommo sacerdote, sapendo che questo non lo avrebbe ascoltato, dopo aver detto chi fosse, egli fu condannato. Proprio perché la risposta non rientrava nei canoni dei giudei, nei principi del sommo sacerdote. Rifiutare la risposta di Dio perché questa non rientri nei nostri schemi o nei canoni della nostra logica è uno degli atteggiamenti più comuni del cristiano. Se crediamo che chiunque chieda, riceva. Chi cerchi, trovi, e che sarà aperto, a chi bussi, non dobbiamo scoraggiarci quando non vediamo una risposta secondo i nostri parametri. Vi è una promessa che mi mette in crisi, causa la mia debolezza. Questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. 1 Giovanni 5, 14, 15. Giovanni non sta asserendo che noi vediamo la risposta di Dio alle nostre preghiere, che comprendiamo il suo modo di agire, ma che noi sappiamo di avere le cose che abbiamo chiesto a Dio. La fede del cristiano è basata sul sapere, non sull'udire o vedere. Chi cammina secondo questa regola onora e glorifica Dio. Chi crede di avere già ricevuto uno spirito di forza, d'amore, di correzione, di autocontrollo o di disciplina, 2 Timoteo 1:7, di avere lo Spirito Santo, 1 Giovanni 4:13, la vita eterna, 1 Giovanni 5:11, la mente di Cristo, 1 Corinzi 2:16, e perciò intendimento per conoscerlo, 1 Giovanni 5:20, una consolazione eterna e una buona speranza, 2 Timoteo 2:16. Anche se l'evidenza potrebbe contraddirlo, avrà costantemente nel suo cuore un canto di riconoscenza. Questo contraddistingue il cristiano da chi sia solo credente, limitandosi a seguire solo dei principi puramente religiosi, anziché Gesù. 4. Dio non risponde in una richiesta per la quale egli ha già dato una risposta. Le cose occulte appartengono all'Eterno, il nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Deuteronomio 29, 29. Abbiamo conosciuto le cose rivelateci da Dio per mezzo della sua parola. In essa abbiamo la sua volontà ben espressa. Per quanto posso capire, ci sono due volontà di Dio. C è quella generale e valida per tutti, riassunta nei suoi comandamenti. C è, poi, quella personale, che varia da persona a persona. In pratica, il divieto di uccidere è per tutti ma non a tutti. Il Signore ha dato il compito di lasciare padre e madre e di seguirlo. Quindi è inutile che noi chiediamo al Signore se possiamo uccidere una persona o se possiamo commettere un adulterio, perché, molto probabilmente, alla fine, ci sentiremo approvati da Dio facendo ciò che vogliamo. L'episodio di Balaam ne è un esempio. Egli voleva andare da Balak, anche se c'era un chiaro divieto di Dio. Chiedendo insistentemente, egli ottenne ciò che voleva. Forse non tutti lo hanno compreso, ma il Signore risponde anche alle preghiere non corrette. Vi stupisce, oltre all'esempio citato di Balaam, quando Israele chiese un re, nonostante questo non fosse nel volere di Dio, egli lo concesse loro. Una risposta alla preghiera non è sempre sinonimo che questa rientrasse nella volontà di Dio. Ecco perché una preghiera ostinata di richiesta, anziché di lode, di ringraziamento ed adorazione, può contenere delle motivazioni sbagliate. Il silenzio di Dio servirà per comprendere aspetti nella vita che ci sfuggono. Una madre mi disse di aver pregato Dio in modo insistente perché non gli togliesse un figlio nato non normale. Ora mi confidava che si era resa conto del suo errore, avendo pregato tanto insistentemente. Se Dio non risponde in occasioni per le quali egli ha già fornito una risposta, il suo silenzio di fatto è dovuto alla nostra mancanza, non avendo adeguatamente o costantemente letto la sua parola, nella quale, probabilmente, avremmo trovato la risposta adeguata. Molte volte noi brancoliamo nel buio proprio perché conosciamo poco o male la sua volontà, espressa nella Scrittura. Dio ha lasciato scritto la sua volontà in un libro, affinché che noi avessimo una guida giornaliera per quello che facciamo. Colui che la conosce si trova a vivere una vita di lode, di ringraziamento, di riconoscenza, quel gioiello, secondo la definizione di About Tozer, della corona mancante nel cristianesimo. Per esperienza posso dire che, nel leggere tutta la Bibbia in un anno, ho avuto, e più di una volta, la possibilità di avere una risposta a molti interrogativi. Abbiamo valutato alcune ragioni del silenzio di Dio, alcune sono dovute a Lui stesso, altre volte Dio non risponde a causa nostra. Ma dobbiamo confessare che non possiamo comprendere appieno il silenzio di Dio, come il silenzio che avverrà in cielo per mezz'ora, Apocalisse 8:1. Il più delle volte rimane uno degli aspetti insondabili della sua personalità, e anche in questa esperienza non siamo gli unici. Anzi, in un certo senso, abbiamo uno stretto rapporto con Cristo. Sulla croce Gesù pregò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù non si rammaricò di essere stato abbandonato, non si lamentò con gli altri di essere veramente solo, non rimproverò Dio di essere stato lasciato a se stesso, ma si limitò a gridare: Dio mio. Nella disperazione di quel grido, vediamo una fiducia in Dio che non si arrende, neppure di fronte alle circostanze negative. A volte, malgrado tutte le evidenze del momento, dobbiamo farci forza e persistere con ostinatezza, credendo che ci sia un Dio trino che ci ascolta, ci vede e comprende. Essere sensibili nei riguardi del silenzio di Dio non è, in nessun modo, una prova di mancanza di spiritualità, anzi è il contrario. Un giorno, in cielo, adoreremo il nostro Dio trino, perché ha parlato, ha operato, ma anche perché, per amore, è rimasto muto, in silenzio. Giugno 2001, Ellero,